in primo piano. Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Siamo quasi a Natale, abbiamo ancora un appuntamento, anzi in realtà no, perché il prossimo appuntamento è il 26 di dicembre, quindi sarà Santo Stefano. Ci sentiremo comunque con questa rassegna, però questo è l'ultimo appuntamento prima di Natale. E allora esprimiamo un desiderio. Lo fa Wirtschaftswoche, che è il settimanale economico tedesco per eccellenza, letteralmente vuol dire la settimana dell'economia. La copertina è un fotomontaggio, però curioso, perché è una piscina a forma di euro. E in questa piscina, su un materassino, c'è un signore chiaramente vestito da ufficio, con tanto di cravatta, senza calze, però e con i calzoni rimboccati. Il titolo è Nie mehr arbeiten, cioè non lavorare più. E l'approfondimento della Wirtschaftswoche è su come, naturalmente bisogna essere stati previdenti già fino a questa età individuata appunto da Wirtschaftswoche a 40 anni, come riuscire a fare un piano finanziario per riuscire a smettere di lavorare a 40 anni. Invece Der Spiegel, che è un altro settimanale tedesco, questo è un vero e proprio news magazine, qui la copertina è molto più seria, non c'è proprio nulla di allegro né, se vogliamo, che apra alla speranza. È una sembrerebbe quasi un dirupo, in realtà è la linea di un grafico stampata su uno sfondo nero. Il titolo è Das Winterversagen, l'inverno negato, e questa linea porta dal 1 novembre al 10 di dicembre. Il 1 novembre sulla copertina dello Spiegel viene ricordato: in Germania c'erano 29 morti e si era arrivati fino a quel punto a 10.481 dall'inizio della pandemia, dell'epidemia, e al 10 dicembre le due cifre sono salite a 440 al giorno e 20.372, quindi raddoppiati di fatto, morti dall'inizio. Questo è naturalmente l'approfondimento per come la Germania ha affrontato, o meglio ha fronteggiato e ora sta cercando di affrontare e mitigare la seconda ondata e tutte le conseguenze sulle vite personali delle persone. In Germania ci saranno delle restrizioni per i giorni di Natale, e il Natale in Germania è molto sentito, molto più dure e credo molto meno flessibili e suscettibili di cambiamenti dell'ultima ora di quelle che avremo noi in Italia. Ma poi naturalmente ci sono le conseguenze economiche. È vero, come si dice spesso, che contestualmente all'annuncio di un lockdown, di restrizioni, di chiusure di esercizi commerciali, Angela Merkel e il suo governo annunciano contestualmente anche l'ammontare dei ristori, ma prima di tutto naturalmente i ristori sono comunque denaro pubblico, quindi denaro a debito, debito che pesa sul bilancio dello Stato, che quindi peserà sulle future generazioni, e comunque i ristori servono sì a non fare fallire possibilmente nessuno, ma è chiaro che sono comunque una misura di emergenza. Per restare sui settimanali, l'Economist ha il suo consueto Christmas Double Issue, quindi il prossimo numero dell'Economist lo vedremo in gennaio, non venerdì prossimo, e è in prima pagina c'è un astronauta, e perché se volete insomma abbiamo visto molto di piani per tornare nello spazio, a parte l'annuncio che aveva fatto Donald Trump, addirittura aveva costituito un nuovo corpo dell'esercito proprio per lo spazio. Ma di molto concreto ci sono i tentativi di Elon Musk, naturalmente con il suo sogno di un turismo spaziale, anche addirittura di una colonizzazione di Marte, e poi c'è la Cina che con questa missione di ritorno dalla Luna ha riportato sulla Terra un materiale lunare. È stato naturalmente un grande successo per la Cina, ma oltre che di questo, quindi An Escape to Mars, uno dei tanti temi sulla copertina dell'Economist, quindi una fuga verso Marte, ma ci sono anche tantissimi altri temi che hanno caratterizzato il 2020, forse, anzi senza forse, oscurati ovviamente dalla pandemia, ma che tali e quali, o forse addirittura aggravati, li ritroveremo nel 2021. Tra questi c'è l'anniversario della cosiddetta primavera araba, certo strano considerare l'anniversario di una primavera in dicembre, ma perché fu proprio il 16 di dicembre di 10 anni fa che un ambulante tunisino si diede fuoco, aveva solo 26 anni, si diede fuoco e morì nella sua città, nella capitale della Tunisia, per protestare contro le condizioni economiche, ma anche naturalmente di restrizione delle libertà personali. Da lì, nei mesi e nell'anno a seguire, ci furono tanti tentativi, da qui il termine per primavera araba, per smuovere le cose in tanti paesi, in particolare del Nord Africa, oltre alla Tunisia. Purtroppo, come sappiamo, a 10 anni di distanza poco è cambiato. Potrebbe invece effettivamente cambiare qualcosa, anche se ci sono naturalmente già i critici che dicono per ora quello che ha fatto Biden è solo fare delle nomine effettivamente sulla carta molto di rottura, però i programmi dei suoi vari ministri li dobbiamo ancora conoscere, e naturalmente anche i grandi temi del rapporto tra Stati Uniti e Cina, tra Stati Uniti e Unione Europea, tra Stati Uniti e Medio Oriente. Però intanto queste nomine, come sottolinea il New York Times, continuano a stupire. Quindi c'è un primo nero alla Environmental Protection Agency, che non è esattamente un ministero, ma è comunque alla forza di un ministero, e cura appunto gli interessi segue tutta la parte ambientale delle politiche americane. E poi c'è Deb Haaland, che è stata scelta da Joe Biden ed era sulle prime pagine di tutti i giornali, dal New York Times al Washington Post, come ministro segretario, quindi del Department, perciò equivalente del nostro ministero, delle risorse naturali. Non è proprio l'ambiente, è qualcosa di un po' diverso. Include questo ministero, che dà lavoro a 70.000 persone, ha giurisdizione su tutti i parchi naturali, sui diritti di trivellazione, quindi capite, temi molto importanti per l'ambiente. È una nativa americana, appartiene alla tribù Laguna, che è una tribù dei nativi americani del New Mexico, stato per il quale è stata anche eletta al congresso come representative, quindi non come senatrice. E ricordiamolo, e naturalmente lo sottolinea il New York Times, i nativi americani sono a tutti gli effetti una minoranza negli Stati Uniti, si calcola siano compresi quelli che hanno un solo genitore nativo americano, siano circa 5 milioni, quindi sui 330 degli Stati Uniti, di popolazione degli Stati Uniti, sono circa l'1,5%. Lei non è stata, il tema non è che è stata scelta per tutelare gli interessi dei nativi americani, anche se in quelle zone sulle quali ha giurisdizione il suo dipartimento vivono il 70% dei nativi americani, ma è veramente come possiamo chiamarlo, anche un riconoscimento tardivo, molto tardivo, a quello che è stato alcuni addirittura ho scoperto lo chiamano non genocidio ma etnocidio dei nativi americani, non soltanto dei nativi americani del Nord America, ma anche naturalmente di quelli del Centro America e del Sud America. È la cancellazione di tanti popoli, in questo caso di tante naturalmente diverse tribù di indiani, che si è snodato lungo quasi 5 secoli. Da quando Cristoforo Colombo nel 1492, credendo di essere arrivato in India, da qui il nome indiani, sbarcò appunto in America. Per quanto riguarda invece l'Europa, Financial Times e tantissimi altri quotidiani hanno dato notizie, hanno dato spazio alla positività di Emmanuel Macron. Il presidente francese probabilmente si è contagiato all'ultimo vertice di Bruxelles con gli altri leader, e poi però c'è anche molto spazio alle inchieste su Google che vengono fatte da entrambe le parti dell'oceano, sia per le accuse di monopolio per quanto riguarda le ricerche su internet, ma anche per eventuali accordi non trasparenti con Facebook, e poi anche gli scenari dei futuri accordi tra Stati Uniti e Bruxelles, che saranno, e anche tra Bruxelles e la Cina. Dicevamo prima, uno scacchiere molto fluido in questo momento, perché lo ricordiamo ancora una volta, ci sono ancora scadenze importanti prima di poter considerare l'interlocutore americano Joe Biden, che in questo momento è ancora president elect. Il 6 di gennaio il congresso ufficializzerà il suo insediamento, e poi ci sarà l'inaugurazione a Washington il 20 di gennaio. In attesa di queste, tra l'altro prima del 6 gennaio, un giorno prima, si vota in Georgia per eleggere i due senatori che lo Stato porterà al congresso e che potrebbero cambiare gli equilibri del congresso, spostandolo a favore dei democratici. tantissime anche le altre notizie sui quotidiani europei. Su Liberation, per esempio, in questa settimana c'è stata una vera e propria apertura del giornale su quello che succede al confine tra Italia e Francia, quando i migranti cercano di passare questo confine. Sono storie, sono singole storie, quindi ognuno dovrebbe magari leggerle, poi cercarne magari altre per farsi un'idea, però sicuramente il dramma dei migranti e quello che le persone che scappano da alcuni paesi sono disposte a fare, o i rischi che sono disposti a prendere per cercare una via d'uscita, ancora una volta un'altra delle tante questioni messe in ombra dalla pandemia. Poi, sempre dalla Francia, Le Figaro ha dato molto spazio a questa notizia di cronaca. L'ex nunzio apostolico in Francia, Monsignor Luigi Ventura, è stato condannato dal Tribunale di Parigi a 8 mesi di prigione con la condizionale per aggressioni sessuali. E l'ex ambasciatore del Vaticano in Francia, perché questo è l'equivalente di un nunzio apostolico, dovrà anche pagare tra i 2.000 e i 6.000 euro di danni a 4 uomini che sono stati riconosciuti vittime di molestie durante diverse manifestazioni ed eventi pubblici a Parigi, tra l'altro in tempi non lontanissimi, cioè tra il 2018 e il 2019. Monsignor Ventura, lo ricordiamo, lo ha ricordato anche Le Figaro, si è comunque sempre proclamato e continua a proclamarsi innocente. Avevo messo da parte tantissime altre segnalazioni, ma oggi davvero il tempo è volato, quindi vi auguro un buon sabato. Naturalmente ci sentiremo domani, se vorrete, con la rassegna stampa dei quotidiani italiani, e poi abbiamo tutto il tempo di farci gli auguri di Natale settimana prossima.